Pasqualino pescatore viveva in assoluta povertà, però sentiva sempre in fondo al cuore qualcosa che diceva un dì verrà. E un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana sopra un bastimento, la bellissima Cali. Pasqualino la guardò e Cali si innamorò e in India lo portò. Pasqualino Maharaja a cavallo all'elefante con in testa un gran turbante per la giungla se ne va. Pasqualino Maharaja non lavora e non fa niente, fra i misteri dell'Oriente fa il navabbo fra gli indù. Ulla ulla la, ulla ulla la. Mentre principi potenti gli si inchinano davanti, lui si fuma il narghilè. Pasqualino Maharaja ha insegnato a far la pizza, tutta l'India ne va pazza, solo pizza vuol mangiare. Pasqualino Maharaja ha imparato a far l'indiano e da buon napoletano chiama tutti, uè, paisa, ulla, ulla, ulla.